Albu Ruj, le costellazioni. Bismillahirrahmanirrahim. In nome di Allah, il compassionevole, il misericordioso. Was-samai dhatil buruj. Per il cielo dalle costellazioni. Wal-yawmil maw'ud. Per il giorno promesso. Per il testimone e la sua testimonianza. Sia maledetta la gente del fossato. Dal fuoco incessantemente attizzato. Quando se ne stavano seduti accanto testimoni di quel che facevano i credenti. وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. E non li tormentavano che per aver creduto in Allah, il potente, il degno di lode. الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ. Colui al quale appartiene la sovranità dei cieli e della terra, Allah, è testimone di ogni cosa. إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ. In verità, coloro che perseguitano i credenti e le credenti e poi non se ne pentono, avranno il castigo dell'inferno e il castigo dell'incendio. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. In verità, coloro che credono e compiono il bene avranno i giardini dove scorrono i ruscelli. Questo è il grande successo. Inna batusha rabbika lashadid. La risposta del tuo Signore è severa. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. In vero, egli è colui che inizia e reitera. Egli è il perdonatore, l'amorevole, il Signore del trono glorioso, colui che fa tutto ciò che vuole. هل أتاك حديث الجنود؟ Non ti è giunta la storia delle armate? فرعون وثمود. I faraoni dei Thamud. بل الذين كفروا في تكذيب. I miscredenti continuano invece a tacciare di menzogna. والله من ورائهم محيط. Nonostante che Allah sia dietro di loro e li circondi. بل هو قرآن مجيد. Questo è invece un Corano glorioso. في لوح محفوظ. Impresso su di una tavola protetta.